Noi sabato abbiamo occupato questo spazio, questa ex scuola, sulla quale non si capisce bene, ma ci sono degli interessi di privati, perché è una scuola pubblica appunto che si vocifera nel quartiere, che vogliono far diventare privata, e l'abbiamo occupata perché appunto siamo un gruppo di donne in emergenza abitativa molto variegato. Ci sono donne di tutti i tipi e di tutto il mondo che fanno precarie, studentesse, insegnanti, femministe, lesbiche, madri, di tutto insomma appunto. Abbiamo occupato questo spazio da sabato e abbiamo ottenuto, abbiamo saltato dei percorsi classici, diciamo, di rapporto con le istituzioni, andando a parlare direttamente col comune di Roma piuttosto che col municipio, e abbiamo incontrato l'istituzione ieri. Nonostante abbiamo deciso, da quello che si è detto, per la particolare tensione tesa che c'è in città, come penso che tutte e tutti sappiamo, da quello che sta accadendo anche in altri spazi, abbiamo deciso di lasciarlo lo spazio perché lunedì avremmo avuto lo sgombero. E quindi però vogliamo andare avanti nella lotta. La cosa buona appunto che dicevo è che da questo incontro ne siamo uscite con già un altro tavolo fissato per la prossima settimana, e quindi il comune, l'assessorato Antoniozzi già ha riconosciuto a questo percorso, a questo progetto, anche una sua specificità, no? Che è appunto quello di essere composto da sole donne. E quindi noi andiamo avanti comunque anche dopo il tavolo con la nostra forza per portare avanti quello che, nel quale crediamo, cioè uno spazio che sia socioabitativo, cioè dove noi possiamo vivere, però dove possiamo anche aprire alle donne di tutto il resto della città o del quartiere. Per esempio, già stando là a Torre Maura abbiamo ricevuto da subito la solidarietà delle donne del quartiere, che sono venute con tegami di pasta oppure a portarci delle coperte, lasciarci delle pentole o semplicemente a passare di là e a chiederci chi eravamo, cosa stavamo facendo. Ovviamente tutti ci dicevano: bravi, avete fatto bene, tanto questo spazio stava andando, cioè era vuoto, almeno così ritorna la vita. Poi noi gli dicevamo: sì, abbiamo anche vuoi dire qualcosa? Abbiamo anche, cioè noi ci siamo poste fin da subito che lo spazio sarebbe stato aperto alle donne del quartiere, no? Anche perché là c'era un giardino enorme, però l'erba era altissima, quindi noi ci abbiamo pulito, avremmo voluto farci un orto, un parco, e quindi le donne che passavano di là dicevano: ah, che bello, finalmente possiamo ritornare qua dentro. Ed è stato bello appunto, anche se per pochi giorni è stata una cosa bella. E infatti, dico solo questo, do la punta per domani. Domani abbiamo organizzato un pranzo al sacco con la punta a mezzogiorno e mezza là davanti a Casa Libera Tutte, che ricordo la via dei Tordi 38, e poi andiamo là nel parco dietro casa, diciamo, incontriamo, per incontrare sia le donne del quartiere, sia le compagne che ci hanno sostenuto, le donne degli altri spazi occupati che sono venute volontariamente a darci un sostegno, perché condividono con noi sia la lotta per la casa, sia la lotta come donne che si vogliono prendere uno spazio e fare un'azione autonoma, insomma. Quindi è una notizia buona e una notizia cattiva, esatto, allo stesso, sì, tempo. Il percorso, sì, continua, la lotta continua, però sì, e domani c'è questo pranzo. Esatto, la lotta continua, e continua anche nelle forme che sono nostre, quelle che abbiamo appunto sperimentato, cioè che se non ci danno gli spazi noi ce li prendiamo, insomma. Quindi volevo sottolineare... Sì, sì. diciamo una denuncia di quelle che sono state prime dichiarazioni dell'istituzione nel momento in cui c'è stata prima rivendicazione dell'occupazione, perché di fatto quello che è stato, diciamo, la prima forma di risposta è stata: vi mandiamo i servizi sociali, siete donne da sole con bambini in emergenza abitativa. Non ci hanno riconosciuto a livello diciamo politico come autonomia con una forma di autonomia politica, ci hanno voluto accorpare con altre strutture di cui noi non abbiamo comunque nominato, abbiamo avuto supporti diciamo individuali dei compagne, era un percorso comunque separato, e quindi di fatto la nostra identità politica ce la siamo rivendicata autonomamente, e quello che è stato la risposta dell'istituzione di fronte a un percorso separato di donne, madri, femministe, lesbiche, è stato: vi mandiamo i servizi sociali oppure la Croce Rossa. Certo, avete sicuramente bisogno d'aiuto. Cioè, esatto, era questo. Esatto. Però quindi diciamo che la volontà politica è quella di uscire proprio da questi stereotipi. Adesso andremo a vedere se con l'istituzione, cosa che di fatto è difficile credere, abbia un senso tutta questa forma di percorso. Prenderemo atto del fatto se abbia senso o no, e poi insomma valuteremo insieme quali saranno le mosse successive. Volevo dire che appunto la parte positiva io la vedo in questo, non solo nel fatto che loro ci hanno riconosciuto, ma nel fatto che noi abbiamo dimostrato che abbiamo una forza, pur buttandoci addosso questo fatto che in quanto solo donne non potevamo andare avanti, noi abbiamo tenuto duro per tutti questi giorni, e non solo tutti questi giorni, ma appunto vogliamo continuare ad andare avanti, ed è quello che stiamo facendo. A tal proposito, oltre alla punta di domani, volevo chiamare, ancora non abbiamo fissato la data perché ovviamente abbiamo bisogno di prenderci qualche giorno per fare le nostre valutazioni interne, diciamo, però vogliamo, dopo il tavolo, credo, chiamare un'assemblea cittadina per tutte le compagne e tutte le donne che già ci hanno aiutato, sono entrate in qualche modo nel nostro progetto, e per quelle che ancora non hanno avuto il tempo, ancora non hanno sentito parlare di noi. Certo, come si dice in questi casi, questo è solo l'inizio. Esatto, è solo l'inizio. Va benissimo. Staremo a vedere. Sì, anche a fare, vedere, fare, dire. Fare soprattutto. Va benissimo, noi siamo molto felici di ospitarvi qui, perché questa radio ha un percorso politico importante in cui le donne sono una parte fondamentale, anche l'autodeterminazione delle lotte politiche. Appunto per questo c'è un martedì femminista lesbico autogestito, però è molto importante che questa cosa diventi patrimonio non soltanto dell'ascolto, mettiamo, ammesso che ci sia un ascolto selettivo del martedì, ma che ci sia appunto una rivendicazione totale di questi percorsi, perché il fatto che sia un percorso separato, che viene spesso visto come escludente gli uomini, cioè deve rimanere semplicemente un problema di chi si sente escluso, voglio dire. Ognuno parte da quello che è, e se c'è un percorso che ti esclude, te invece di sentirti escluso dovresti semplicemente chiederti di che cosa fai parte nell'organizzazione della nostra società. Non è un addossare delle responsabilità agli individui, ma è parte delle scelte. E non essere per forza esclusive, semplicemente. E devo dire che volevo fare un piccolo aneddoto. Sono passati due, anche, cioè ogni tanto passava anche qualche uomo là davanti e chiedeva del quartiere, e si sono, cioè, hanno capito la cosa, hanno detto: brave, brave, fate bene, andate avanti così. Addirittura il nostro vicino ci ha detto che lui sapeva tutto tramite la radio, e quindi insomma anche questo era bello, che in qualche modo il quartiere ci ha accettato nella nostra complessità, ha risposto bene, e per questo un po' è stato brutto andare via da là, però insomma domani torniamo, non finisce quindi, qui. Esatto, domani torniamo e ci rincontreremo. Benissimo, e quindi a domani col pranzo al sacco davanti al prato della scuola di Casa Libera Tutte. Benissimo, grazie. Ciao. Ciao. A te. Ciao. Ciao. Ciao.